Steve a mis au point différents réservoirs. La finestra sul cortile di Riccardo Chiaberge. Bentornati, rieccoci alla nostra finestra sul cortile, l'appuntamento settimanale di Radio 24 con le pagine culturali dei giornali stranieri. Niente vidi, niente sacciu, niente sentii. Il famoso motto delle tre scimmiette simboleggia il comportamento tipico dei picciotti di Cosa Nostra. Ma l'omertà, il rifiuto delle proprie responsabilità, la negazione dell'evidenza, sono vizi comuni tanto alle organizzazioni mafiose quanto alle società totalitarie. Per conformismo, per paura, per amore del quieto vivere si subiscono le violenze, i soprusi e si chiudono gli occhi di fronte alla realtà del crimine organizzato o della tirannide. Purtroppo questa tendenza è diffusa anche tra gli intellettuali che, quando sono innamorati di un'idea, si rifiutano di accettare le dure repliche della storia e contribuiscono così a diffondere menzogne di comodo. Di omertà, di mafia e di totalitarismo parleremo in questa puntata della Finestra sul Cortile, ma intanto ascoltiamo che cosa prevede il menù di oggi. Stati Uniti, un'offerta che non si può rifiutare. Intrighi fra Hollywood e mafia italoamericana dietro l'uscita cinematografica del film Il Padrino. Inghilterra, una scuola inglese reintroduce le regole di comportamento vittoriane. E i risultati si vedono. India. Cancellata la parola barbiere dai manifesti cinematografici di Bollywood. C'è chi la ritiene offensiva. Francia. Ripubblicato il diario di viaggio in Cina di Roland Barthes. L'esperto di segni non aveva capito i segni del regime comunista. Medio Oriente. L'immagine della donna araba in Occidente sta cambiando. Merito dei video della regina Rania su YouTube. Germania. Terremoto culturale a Francoforte. La Surkamp abbandona la città tedesca per trasferirsi a Berlino. Da molti anni ci conosciamo, ma questa è la prima volta che viene da me per consiglio o per aiuto. Nemmeno me la ricordo l'ultima volta che mi invitaste a casa tua a pigliare un caffè. Ma diciamoci la verità. La mia amicizia tu non la volevi. Avevi paura di trovarti in debito. Trovaste il paradiso tuo in America. Commercio avviato, vita sicura, polizia che ti protegge, giustizia nei tribunali. A che ti serviva un amico come me? Ma ora vieni da me e mi dici: Don Corleone, fammi giustizia. Però non lo domandi con rispetto. Tu non offri amicizia. Non ti sogni nemmeno di chiamarmi padrino. Avrete riconosciuto tutti la voce doppiata di Marlon Brando nei panni di Vito Corleone in una scena celebre del Padrino di Francis Ford Coppola. Proprio al Padrino, tanto al romanzo di Mario Puzo quanto al film che ne è stato tratto, è dedicato un lungo articolo su Vanity Fair di marzo, firmato da Mark Seal. E racconta Mark Seal, per l'appunto, i retroscena, insomma, che stanno alla base di quello che è stato uno dei maggiori successi del cinema di tutti i tempi. Parla appunto di quelli che furono i contrasti, le discussioni dietro le quinte tra il regista Francis Ford Coppola, il produttore Al Ruddy e gli capi della Paramount, Robert Evans e Peter Bart, che secondo l'articolista dell'edizione americana di Vanity Fair erano dei duri almeno quanto i gangster del romanzo di Mario Puzo. Ci furono grandissime dispute e discussioni sulla scelta degli attori, dei protagonisti, Marlon Brando e Al Pacino, ma soprattutto ci fu uno scontro violentissimo con i capi di Cosa Nostra. Racconta Mark Seal che nel 1968, nella primavera del 68, un sconosciuto scrittore dal nome Mario Puzo entrò nell'ufficio di Robert Evans, proprio il capo della produzione del Paramount, e aveva una specie di plico, insomma, di 50-60 pagine di dattilo scritto sotto il braccio. Questo signore, questo Puzo, era un giocatore d'azzardo pieno di debiti fino al collo e chiaramente aveva bisogno di guadagnare. Ecco, racconta ancora Mark Seal che nel 1969 il Padrino, The Godfather, fu pubblicato e per 67 settimane nella lista dei bestseller del New York Times. Era già stato tradotto in tante lingue che lo stesso autore non riusciva più a seguire le traduzioni. Eppure i produttori di Hollywood ancora avevano dei dubbi se realizzare o no il film, proprio perché i film dedicati alla mafia non avevano avuto fino ad allora grande successo. E per esempio The Brotherhood con Kirk Douglas nei panni di un gangster siciliano era stato un flop proprio nel 69, per cui si decise che il regista dovesse essere un italo-americano e la scelta cadde per l'appunto su Coppola. Ma intanto ci ha raggiunto un ospite che salutiamo, ben trovato, professor Lupo. Buonasera. Il professor Lupo è storico e autore di Quando la mafia trovò l'America, pubblicato da Einaudi, e che è appunto dedicato, insomma, alla mafia americana, ma in precedenza aveva anche scritto una storia della mafia pubblicata da Donzelli. Professor Lupo, il film di Coppola aiuta a capire il fenomeno mafioso in America o secondo lei ne dà una versione distorta o edulcorata? L'uno e l'altro. La versione è sicuramente edulcorata perché il Padrino è una suprema autorità che amministra la legge in maniera piuttosto benefica nel sì. film e nel libro. Sì. Però è vero che i mafiosi pretendono davvero di amministrare la giustizia in maniera benefica e quindi se è un pessimo contributo per la conoscenza della realtà della mafia, è un ottimo contributo per la conoscenza della sua ideologia. Certo. E poi un altro fatto va rilevato, che tutta una serie di testi scritti poi o ispirati da mafiosi si sono ispirati a loro volta alle pagine del Padrino e alle scene del film. E non è mancato mai il DVD del Padrino dalle case in cui i mafiosi sono stati arrestati. Quindi c'è da chiedersi se è la vita ispirarsi all'arte o se spesso non è il contrario. Quindi in sostanza, insomma, più che diffondere un'immagine negativa della mafia, addirittura veniva considerato quasi un testo e un film di culto dagli stessi mafiosi. Ma è così, viene tutt'oggi, perché è piuttosto, sono abbastanza recenti anche alcuni di questi episodi e poi abbiamo delle rappresentazioni deliziate dei mafiosi stessi, di lettura o di visioni del Padrino, perché il Padrino rappresenta in qualche modo la loro idea, no? Cioè sì, quest'idea uno che grazie alle loro grandi capacità personali, grandi comprensioni dei rapporti umani, riesce a amministrare una giustizia migliore di quella della legge. Della legge, sì, in fondo è appunto la descrizione di una società basata, insomma, sulla fiducia e la protezione, no? Una forma di familismo amorale. È un familismo criminale, diciamo. Noi, ma per loro invece sarebbe super morale. E che ci vogliamo fare? Ovviamente è vero che molto spesso chi rappresenta la mafia ne dà una visione apologetica, perché il capo mafia diventa un eroe, che non è in verità. Certo, spesso si dice che, insomma, tra la mafia americana e quella nostrana ci sono certo dei legami, ma anche molte differenze. Ecco, quali sono le principali differenze? Beh, innanzitutto che la mafia americana agisce in un contesto plurietnico e quindi deve avere a che fare con altre espressioni di criminalità etnica e con un potere economico o politico che non è direttamente affiliato dagli italiani. Certo. E quindi la mafia siculo-americana o italo-americana si inserisce in un interstizio. Poi ci sono anche molte somiglianze, però, perché evidentemente c'è una le due società, pur così diverse, esprimono una comune richiesta di mafia, perché la mafia non funziona di per sé, ma per le funzioni che le sono attribuite da qualcun altro. Quindi abbiamo due società che più diverse non le si potrebbero pensare, la Sicilia ottocentesca e la New York, la Chicago di oggi, che pure chiedono qualcosa di simile, che poi è una regolamentazione extralegale di certe transazioni legali o illegali. Ecco, ma speriamo insomma che nell'America di Obama i padrini contino di meno. Ecco, noi... Non ne dubitiamo, ma speriamo anche che nella nostra Italia i padrini contino di meno. E anche bene. Confidiamo in fin dei conti. Bene, noi ringraziamo il professor Lupo e a presto. Grazie. Grazie a lei. Watching Videos Changing Minds è il titolo di un articolo su Alarm Weekly di Dina Rashed ed è dedicato al premio che è stato conferito alla regina Rania di Giordania da YouTube proprio per il suo contributo a diffondere un'immagine diversa del ruolo della donna nel mondo arabo. E nel video diffuso dalla regina Rania si rappresenta appunto una donna emancipata, dignitosa e libera, che si presenta insomma in qualche maniera molto simile alle donne occidentali. È un tentativo insomma di combattere quelli che sono i luoghi comuni che circolano nel mondo occidentale a proposito delle donne arabe. Il problema è che in questo modo si combattono degli stereotipi con un altro stereotipo, quello della regina. E andiamo in India, dove la categoria dei barbieri si è ribellata all'ultimo film di uno dei maggiori registi di Bollywood, Shah Rukh Khan, intitolato Billu Barber. Hanno chiesto al produttore e al regista di togliere la parola barbiere dal titolo del film e dai cartelloni che si sono diffusi in tutto il paese per la prima prevista proprio in questi giorni. Infatti sostengono che la parola barbiere è offensiva. Evidentemente ormai questa smania perifrastica, eufemistica del politically correct si sta diffondendo anche in India. Forse dovranno cambiare anche tutte le insegne delle botteghe di barbiere sostituendole con operatore tricologico. La finestra sul cortile. La Cina è vicina, si diceva negli anni 70. Ma non era evidentemente abbastanza vicina per gli intellettuali miopi che ci andavano in pellegrinaggio e che non vedevano la realtà del regime, o fingevano di non vederla, o comunque non capivano. E questo risulta anche dagli appunti inediti che stanno uscendo proprio in questi giorni in Francia dall'editore Bourgois, del grande semiologo Roland Barthes, Carnet du voyage en Chine, di cui si occupa Marc Lambron su Le Point. E da questi carnet risulta che il grande semiologo, esperto di segni, non aveva chiaramente ben interpretato i segni dell'oppressione del regime comunista. Era andato tra l'aprile e il maggio del 74, Roland Barthes, in delegazione con altri intellettuali francesi della rivista Tel Quel. In questo viaggio il semiologo si appuntava tutte le sue impressioni, e queste impressioni sono abbastanza così deludenti, perché soprattutto per chi ha una stima e una venerazione verso questo grande intellettuale. Parla per esempio di queste sue visite alle comuni agricole, a officine di trattori, a cantieri navali. Di fronte a questo idillio maoista, Barthes si limita a osservare: è una cementatura di blocchi. ricchi di stereotipi, o ancora la Cina significa poco. Insomma, sembra affetto da una sorta di mutismo o di noia di fronte al grande paese comunista, e soprattutto si stupisce, lui che era notoriamente dichiaratamente omosessuale, dice: ma dove mettono tutta la loro sessualità questi cinesi? Dice: si vestono con queste tute, non conoscono la moda, hanno un grado zero di abbigliamento. Addirittura dice: manca qualsiasi aspetto gradevole della vita, non ci sono caffè come il caffè Flore, come sulla Rive Gauche a Parigi, non si può mangiare un'insalata, non si può avere un flirt con qualcuno. E quando finalmente il suo aereo lascia Pechino, lui si limita a scrivere uff, come dice: finalmente me ne sono venuto via. E dice: dopo tutto, dice, non ho neanche visto il gargarozzo di un solo cinese. Insomma, impressiona in questi appunti una sorta di cecità di fronte alla realtà del totalitarismo, ma non è un vizio del solo Barth. Ecco, di questo vorremmo parlare con l'ospite che abbiamo in linea, Alfonso Berardinelli, al quale diamo il benvenuto alla Finestra sul Cortile. Grazie dell'invito. Ecco, Alfonso Berardinelli, critico letterario, scrittore e spesso anche fustigatore dei costumi e malcostume degli intellettuali non solo italiani. Ecco, Berardinelli, ma qui sembrerebbe di rileggere quelle pagine di quel bellissimo saggio di Paul Hollander di molti anni fa, Pellegrini politici, in cui si descriveva quella, tra virgolette, beata ingenuità di molti intellettuali che andavano in Unione Sovietica e descrivevano una specie di paradiso terrestre. Ma come mai gli intellettuali hanno gli occhi così foderati di pelle di salame, diciamo? Ma un po' perché lavorano spesso con grande inventività a costruirsi dei paraocchi. In particolare per quanto riguarda Roland Barthes, straordinario critico letterario, ma anche soprattutto in una sua seconda fase degli anni della semiologia degli anni 60, anche un po' sofistico. Certo. Imprigionato, astratto, diciamo. Questa mania di creare, come dire, una scienza, il metodo, il super metodo per essere intelligenti e per capire le cose in quanto segni. Ma se le cose diventano segni e la semiologia se ne impadronisce e costruisce una rete sempre più complessa, già nel sistema della moda della fine certo. degli anni 60 mi sembrava che l'intelligenza brillantissima del più giovane Barthes degli anni 50, quando smascherava la borghesia francese, fosse già offuscata da questa specie di scientismo. Insomma, l'intelligenza che doveva essere potenziata dalla semiologia, dalla scienza dei segni, dalla capacità di interpretare ogni segno visibile nelle società e quindi ricostruire il senso di un sistema sociale, è diventato a poco per l'accumulo di questa complessità analitica, è diventato invece una specie di inibitore, secondo me, dell'intelligenza. Sì, una specie di camicia di forza. Di camicia di forza, da cui poi io credo che questi sintomi di noia, Barthes cominciava già in quegli anni e poi più tardi lo ha scritto in diari privati, ad annoiarsi anche della sua condiscendenza e dei suoi entusiasmi nei confronti sia di Tel Quel, sì. alcuni giovani di Tel Quel, Soler, Kristeva e Pleiné, mi pare, o Denis Roche, non so, lo accompagnavano in Cina. Pleiné, sì. Ma lui aveva, nei confronti di questi più giovani, ha sempre avuto una signorile, garbatissima condiscendenza, che era una condiscendenza, io mi ricordo di averlo notato con un certo fastidio quando ero più giovane, condiscendenza che era sia letteraria che politica, parlava delle loro scritture, delle loro écriture come di capolavori di esplosiva, eversiva avanguardia letteraria, quando erano dei flussi di parole informi. E anche dal punto di vista politico immagino che lui fosse ormai, credo, in quegli anni più che intimidito e catturato, appunto annoiato dai suoi compagni di viaggio, ma non aveva nessuna voglia di piantare delle grane, diciamo, politiche, riscoprendo certo. in fondo, e lui lo sapeva benissimo, che cosa avrebbe riscoperto? Avrebbe riscoperto quello che André Gide nel 1936 aveva detto magnificamente nel suo pamphlet Ritorno dall'URSS, cioè quando costretto dal pugnace André Malraux ad andare in Russia per dire che la Russia era la patria del proletariato e della libertà sociale, invece Gide, annoiato preliminarmente, come forse anche Barthes, qualche somiglianza caratteriale i due ce l'avevano, però Gide in quel caso forse anche per vanità, per una giusta vanità morale, non si impedì di parlare e ne venne fuori uno dei più esplosivi pamphlet anticomunisti. Dovremmo dire che il lupo perde il pelo, ma non il vizio, perché molti di quelli che allora non vedevano gli orrori del totalitarismo oggi sono ciechi davanti, per esempio, ai fallimenti della politica di Bush in Iraq o in Medio Oriente. Purtroppo gli intellettuali non imparano mai a guardare la realtà senza occhiali ideologici. Noi salutiamo Alfonso Berardinelli, lo ringraziamo di essere stato con noi e a presto. Arrivederci. E ci spostiamo in Germania, precisamente a Francoforte sul Meno, centro bancario e finanziario della Germania, che in questi giorni è scossa da un terremoto che però non riguarda i mercati finanziari, bensì la cultura e l'editoria. Infatti la casa editrice Surkamp, un gioiello culturale dell'intelligenza tedesca, ha deciso di trasferirsi a Berlino. I motivi che hanno indotto Ulla Berkevich, vedova dell'editore Siegfried Unseld, a una mossa tanto inaspettata quanto rivoluzionaria sono molti: il prestigio di risiedere nella capitale, la vicinanza ai fermenti culturali dell'Europa dell'Est, il ritorno in quella che fu la sede originaria prima della Seconda Guerra Mondiale. Ma al di là del valore simbolico della scelta, sottolineano i critici, ci sono anche concreti motivi economici. In tempi di crisi un trasloco eccezionale permette di lasciare con eleganza a casa chi non voglia seguire l'azienda, come temono ora i molti impiegati della Surkamp. E adesso andiamo in Inghilterra, dove esattamente nel Hampshire, a Fareham, c'è una scuola particolare che applica delle regole un po' antiche, ma che a quanto pare danno buoni risultati. Regole di comportamento addirittura risalenti all'età vittoriana. La Neville Lovett Community School, scrive Laura Clark sul Daily Mail, richiede ai suoi allievi di dire yes invece che yeah, di dire good morning sir al professore quando arrivano a scuola e di alzarsi in piedi quando entra un adulto nell'aula. Dice Jolly Taylor, la preside di questa scuola, che queste nuove regole di condotta stanno dando degli ottimi risultati anche dal punto di vista del rendimento scolastico degli allievi. Forse sarebbe il caso di mettere su YouTube le scolaresche della Neville Lovett Community School e farla vedere nelle scuole italiane. E per questa puntata è tutto. Ringrazio Daniele Casagrande, Vittoria Mussini in redazione, Giorgio Mattè in regia e tutti voi per l'ascolto. Riccardo Chiaberge vi dà appuntamento a sabato prossimo, stessa ora.